Ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo in collegamento con una compagna della rete Nobasine qui altrove, dalla Sardegna, e con lei, ciao! Ciao. E con lei vorremmo parlare del campeggio antimilitarista che c'è stato e finito proprio ieri, c'è stato in questi giorni dal 6 al 10 ottobre e poi praticamente vicino al decimo anno, correggimi se sbaglio se dico delle cose che non sono corrette, e vorremmo parlare appunto degli esiti di questo campeggio perché abbiamo letto il programma e l'abbiamo trovato estremamente interessante. E poi anche della manifestazione sempre a Decimo Mannu che c'è stata in chiusura di campeggio ieri. E quindi, se ci vuoi raccontare un po' come è andato il campeggio, ti passo la parola. Sì, allora, come dicevi tu, appunto c'è stata questi giorni dal 6 al 10 di campeggio, sono state a San Sperate, che è un paesino molto vicino a Decimo Mannu, dove c'è appunto la base militare. Il campeggio si inserisce, giusto per capire un po' da dove viene l'idea e perché soprattutto vicino alla base di Decimo, si inserisce all'interno di una lotta generale contro le basi in Sardegna, ma nello specifico contro la base di Decimo Mannu, perché è un po' quello che abbiamo individuato come, tra virgolette, l'anello debole al momento del sistema basi in Sardegna. Questo perché l'aeronautica militare tedesca, con cui quella italiana divide le spese nella gestione della base militare, ha annunciato che andrà via, e quindi l'idea era quella di mantenere un livello di pressione sulla base per, come dire, disincentivare anche i possibili nuovi gestori e partner dello Stato italiano nella gestione di questa base. Da qui appunto l'idea di organizzare questa più giorni vicino a una base. Il campeggio è stato strutturato un po' in momenti di discussione, dibattito, con tutta una serie di assemblee di cui poi molto sinteticamente vi dirò un po' i temi che sono stati trattati, e poi delle giornate, diciamo, di lotta con il corteo finale che si è tenuto appunto ieri da San Sperate fino alla base di Decimo. Per quanto riguarda un po' gli argomenti che abbiamo individuato come interessanti discutere con molti compagni che erano presenti, tanti da fuori, e quindi questo ci ha fatto anche piacere perché ci ha dato un pochino la possibilità di confrontarci con compagni che vengono da realtà diverse, sono stati ovviamente il tema delle strategie di lotta rispetto alla militarizzazione in Sardegna. Un altro tema affrontato è stato il rapporto tra frontiere e militarizzazione nella società. In modo particolare abbiamo cercato di ragionare sul legame che c'è tra presenza delle basi, militarizzazione generale, diciamo, della società, e gestione, tra virgolette, dei migranti con la costruzione, insomma, delle frontiere che abbiamo visto spuntare un po' in tutti i paesi dell'Europa. Un altro tema che abbiamo sviluppato è stato quello relativo alla repressione, diciamo, su due aspetti. Il primo relativo alla questione delle carceri, il secondo relativo alla questione di fogli di via, eccetera. Perché questi due aspetti? La questione del carcere ci sembrava interessante approfondirla perché la Sardegna, oltre a avere, insomma, il 60% del demanio militare italiano nel proprio stato, ha una presenza altrettanto, come dire, ingombrante di carceri. Basta pensare, insomma, alle 4 nuove che sono state costruite rispetto alle 8 nel territorio, diciamo, italiano. E quindi ci interessava ragionare sul rapporto un po' che c'è tra presenza delle basi, carceri e altri sistemi di controllo sociale che creano un po' una sorta di anello intorno alla Sardegna. L'altro tema è quello dei fogli di via, perché sospinta di una pratica e, insomma, è un ragionamento fatto da tutta una serie di compagni, Venezia, Torino, ma non solo, abbiamo ragionato sulla questione di non accettare le limitazioni che vengono imposte, ad esempio attraverso i fogli di via. Questo perché a partire soprattutto dall'anno scorso, in cui ci sono state tutta una serie di mobilitazioni e c'erano state anche tutta una serie di fogli di via dati ai compagni e alle compagne sia di qua, ma anche alcune compagne e compagni che erano venuti da fuori, per esempio in occasione del campeggio dell'anno scorso, si è ragionato su appunto iniziare una pratica di non accettazione delle limitazioni che ad esempio il foglio di via impone, e quindi ad esempio c'è la questione dei fogli di via che sono stati dati rispetto a Teulada, rispetto a Decimo. L'idea è ovviamente non rispettare il divieto che viene posto dal foglio di via, anche perché questo significherebbe di fatto l'allontanamento fisico di tutta una serie di compagni, ma soprattutto dare un segnale, cioè il fatto che attraverso il foglio di via si cerca piano piano di spezzare il, come dire, il fronte di contrapposizione e ovviamente accettare quella che è la misura restrittiva. Questo volevo solo dire che questo ultimo argomento, gli argomenti del campeggio li abbiamo trovati tutti interessantissimi e importanti, attuali e eccetera, però questo qui in particolare ce lo siamo posti noi anche in diverse riunioni, in diverse assemblee come femministe, perché ci siamo posti il problema oltretutto di come poter supportare, essere attive nella tutela delle militanti e dei militanti che fanno questa scelta, perché di fatto sono scelte che poi incidono nel quotidiano, nelle loro vite, cioè incidono direttamente nelle loro vite, nelle vite delle loro famiglie, incidono nel territorio, cioè questo tipo di azioni repressive che porta avanti il sistema da un po' di tempo, una scelta di fondo che ha fatto, mirano proprio a destabilizzare la vita di ciascuno e ciascuna, e quindi assolutamente come militanti ci dobbiamo porre il problema non soltanto che di rispondere chiaramente con una serie di rifiuti e compagnia bella rispetto a tutte queste imposizioni, ma anche di come tutelare le compagne e compagni che fanno queste scelte. Guarda, tra l'altro questa cosa, ad esempio nel nostro caso si era già proposta l'anno scorso quando ci eravamo sentiti in occasione della manifestazione di Teulada, quella contro la Trident con cui si era riuscita a bloccare, in cui già da mesi prima e anche un po' di settimane prima erano fioccati tutta una serie di fogli di via che erano stati recapitati a un po' di compagni e compagni. Tutti poi erano stati presenti alla manifestazione di Teulada, quindi andando contro. Certo, me lo ricordo. E lì si era fatta anche poi una scelta, perché poi la maggior, praticamente chi ha, una parte di chi aveva il foglio di via che è stata bloccata sui pullman lì, diciamo, vicino alla base prima della manifestazione, alcuni sono stati portati via, ma in quel caso c'era stata la valutazione di dire facciamo sì che per quanto poi il corteo, nel momento in cui si era saputo questa cosa, era tornato indietro a cercare appunto di recuperare i compagni eccetera, però si era fatta anche la valutazione di dire ok, adesso cosa facciamo una volta che siamo ritornati indietro, che abbiamo cercato di riprenderci i nostri compagni, allo stesso tempo però molti compagni, certo, sì, però non possiamo rimanere neanche bloccati, certo, fisicamente, perché l'obiettivo della giornata è quello di bloccare una base, per cui poi il corteo aveva ripreso e si era andato appunto verso le reti. Quindi la questione che dici tu è fondamentale, io penso, anche nel avere una rete effettiva intorno ai compagni che certo Subiscono questo tipo di provvedimenti, perché non è soltanto la questione di tutelarli nel momento in cui avviene, ad esempio, in manifestazione, cioè sono presenti, certo, eccetera, e ovviamente lì ogni realtà deve fare sul momento la propria valutazione se quanto sia fattibile riuscire a tenersi lì e quanto anche rispetto all'obiettivo che si è posto rispetto alla giornata. Certo, sicuramente questo. Dall'altra, però, come dici tu, è una cosa che va va a toccare poi la vita quotidiana. Quindi se io riesco ad avere effettivamente una rete che supporti il compagno o la compagna, soprattutto da quel punto di vista, già è una cosa fondamentale, anche perché ovviamente sappiamo tutto mira poi a creare un disagio nella vita privata e di fatto un isolamento poi da tutta una serie di cose. Ecco, certo. Penso che sia un po'. Io mi ricordo l'anno scorso, mi pare, all'università, quando ci sono state delle manifestazioni, ma del tutto innocue, voglio dire, per cui sono stati fatti dei sit-in fuori dall'università, eccetera. Poi a casa delle studentesse e degli studenti sono arrivate delle sanzioni amministrative, quindi in denaro, cioè delle multe in denaro per delle cose assolutamente, a parte inesistenti, ma anche se fossero state esistenti, voglio dire, non è che ci sarebbe stata differenza, sono delle sanzioni che mirano a coinvolgere anche la famiglia, no? Per cui che cosa succede? Che soprattutto nei ragazzi, nei compagni e nelle compagne molto giovani, la famiglia la prima cosa che dice, gli dice vieni qua, tu non esci più e compagnia bella, cioè si innescano meccanismi di coinvolgimento tutto quello che circonda una persona, perché quando si tratta di sanzioni amministrative poi ci si deve fare i conti direttamente, ti dico una sciocchezza, vanno Equitalia, vanno qua, vanno là, per cui militante o la militante che ha un certo tipo di impostazione magari dice no, tanto non mi interessa niente, non me ne importa niente, eccetera. Però c'è tutta una militanza di fondo anche di quelli che si affacciano, tipo appunto gli studenti delle scuole medie o dei licei che qui a Roma si danno molto da fare, a cui le famiglie troncano subito le gambe. Guarda, questa cosa, per esempio, da noi c'era stata la questione anche delle denunce nei confronti di alcune minorenni, sì. Nelle basi. Tant'è che quando insomma successe tutta questa serie di episodi, si ragionò sulla necessità, cosa che poi insomma è stata fatta, di creare una cassa a sostegno non solo, come dire, economico dal punto di vista delle spese legali eccetera eccetera, ma che soprattutto fosse un punto di riferimento per tutte quelle persone che appunto ricevevano una serie di denunce, sanzioni e quant'altro. Certo. Anche perché come dire, se magari fino ad adesso in parte il foglio di via è arrivato per la maggior parte a come dire, più che altro militanti, per intenderci. Certo. C'è il discorso poi della denuncia invece che arriva con l'ingresso nella base, e lì è arrivato a persone che erano venute in manifestazione magari anche le prime volte, e quindi anche lì devi cercare di creare un pochino una rete e far capire che ovviamente il concetto di lotta non è soltanto nel momento della manifestazione o nel momento in cui cerco di costruire un percorso di lotta, ma è anche poi nel tutelare, difendere, avere un'area di solidarietà quando la repressione si fa, certo, si fa viva. Certo. E poi invece la manifestazione? Senti, allora, la manifestazione è stata tutto lunedì, questo perché un po' su come abbiamo sempre portato avanti dall'inizio, come scelta abbiamo sempre deciso di farli in giorni lavorativi, ovviamente per noi, ma soprattutto per i militari, e quindi la manifestazione si è fatta il lunedì, che è un normale giorno, diciamo, di operatività della base, che per intenderci è una base da cui partono gli aerei militari fondamentalmente quotidianamente. Certo. Ha avuto, diciamo, una buona partecipazione, molto, diciamo, più limitata rispetto alle altre, anche perché non c'era la, come dire, grande esercitazione come era successo negli altri casi, però è stato fondamentale il fatto di aver comunque mostrato una presenza di contrapposizione e di lotta alla base, soprattutto in questo momento in cui, dicevo prima, la base vive un periodo un po' particolare. C'è stata, tra l'altro, non solo la manifestazione di ieri, ma anche due giorni prima una passeggiata notturna, per cui dopo una giornata di iniziative al paese di San Sperate si è fatto un percorso appunto in notturna sempre verso la base. In questo caso, nel caso della passeggiata, non siamo riusciti a raggiungerla perché ci hanno poi bloccato, diciamo, prima di un fiume che si sarebbe dovuto attraversare, però comunque sia siamo riusciti in qualche modo a mantenere una presenza anche in un momento un po' particolare come quello notturno. Certo, che non è facile, certo, no, è assolutamente difficile. Senti, ma in questi giorni abbiamo visto, l'abbiamo anche pubblicato sul blog, che c'è tra l'altro un'esercitazione che si chiama Emerald Move nel Mediterraneo, cioè praticamente fuori dalle coste della Sardegna, e che... No, dimmi tu. No, dicevo che partecipano eserciti di le marine, in pratica, di Italia, Olanda, Francia, Spagna, Turchia, Regno Unito, Portogallo, Belgio, li sto leggendo qua sotto che sono una sfilza, e che il porto di Cagliari è stato destinato proprio all'attracco di tutta una serie di portelicotteri, portaerei e compagnia bella. Sì, esatto, già un po' di giorni fa, infatti, erano uscite anche le immagini subito delle navi turche che avevano attraccato lì al porto, e questo c'è anche poi la base di Teulada. Tra l'altro su questo apro una piccola parentesi, perché poi nel frattempo si è riattivato anche un percorso di lotta, se vogliamo, storico, che era quello dei pescatori di Teulada contro la certo, base, sì. Che appunto anche contemporanea un po' con questa mega esercitazione, un percorso un po', diciamo, particolare, nel senso che a partire già da molti anni fa i pescatori avevano iniziato questi blocchi delle esercitazioni con appunto le imbarcazioni a mare, e poi tutto si era un po' ridimensionato perché erano stati dati gli indennizzi, che sono la grande arma che lo Stato utilizza fondamentalmente per mettere un po' a tacere, sì, sì. No? I malumori dei paesi soprattutto intorno alla base. È uno strumento di tacitazione, non sì. Lo so, non mi viene. Esatto, quindi sì, diciamo la cosa interessante è che per quanto in questo caso, come dire, si sia scelto da parte nostra di puntare l'attenzione di più su Decimo, però è vero anche, come dici tu, che ci sono sempre queste mega esercitazioni in cui la Sardegna praticamente sempre è un punto di riferimento. Praticamente è fronte, voi siete un fronte, tutto il territorio della Sardegna è un continuo fronte di esercitazione, e questo è una cosa tremenda se uno ci pensa, tanto è un fronte così esplicito, usato continuamente, eccetera, tanto però c'è un silenzio, diciamo, dei mass media e compagnia bella, per cui non c'è la sensazione che in Italia e comunque da voi succedano delle cose così forti. Sì, è vero come dici tu, che non passa il problema, cioè, finché non lo fa passare il giornale, ovviamente funzionale al tutto, sta un po' a noi cercare di farlo passare. Certo. Devo dire un po'. Nell'ultimo tempo forse si è riusciti, anche grazie insomma all'attenzione dei compagni e le compagne, a far emergere di più questo aspetto, non solo il fatto che, come dire, ci sia magari la ripresa di un certo tipo di lotta, ma proprio la centralità che la Sardegna ha all'interno di un contesto internazionale. Certo. E quindi chiunque insomma porti avanti una lotta non solo antimilitarista ma anticapitalista e con un principio di solidarietà internazionale non può non tener conto del fatto che la Sardegna all'interno dello Stato italiano ha un ruolo sicuramente cruciale. Devo dire, questo anche per noi è stato un po' un piacere, perché per esempio durante il campeggio alcuni compagni dell'assemblea antimilitarista diciamo nazionale italiana hanno sottolineato questo aspetto, dicendo: per noi la Sardegna ricopre un ruolo importante, quindi forse è opportuno che le nostre iniziative, le nostre energie vadano a supporto di questa lotta, anche perché è giusto che forse piuttosto che disperdere, no, e frammentare le energie su tanti obiettivi, quando le energie magari sono anche limitate, si catalizzino invece su quello che è un po' il buchino che si crea nella maglia e si cerchi un po' di ampliarlo. Ecco. Noi condividiamo moltissimo questa scelta, perché voi state portando avanti una lotta adesso da tanto tempo, che devo dire la verità ha abbastanza diciamo bucato la famosa rete, cominciato a buttare gli zoccoli nell'ingranaggio, no? Per cui sì, e quindi anche secondo noi va supportata, anzi appunto se vi fa piacere, se ci continuate ad aggiornare, noi siamo contentissime sia di rilanciare sia di fare qualcosa in supporto, ecco questo. Bene. Allora io ti ringrazio tantissimo e saluto a tutte le compagne e tutti i compagni, a sentirci presto e appena avete qualcosa chiamateci. Grazie, ciao. Grazie mille a voi, ciao. Ciao. Ciao.